Buongiorno, grazie. Buona domenica. Benvenuti a questa nuova lezione di jazz. Prima di iniziare vorrei ricordare che insomma, sono giorni molto difficili per noi, per la libertà di espressione che ha ricevuto un attacco molto duro in questi giorni. Come sapete, in queste ore c'è una manifestazione praticamente di respiro europeo a Parigi. Io vorrei solo ricordare che le parole che ha detto il premier svedese quando un fanatico cristiano, Breivik, ha ammazzato più di 70 ragazzi in Svezia, e cioè che l'attacco alla libertà di espressione si può rispondere in un solo modo: aumentando la libertà di espressione. Tutto il resto o è populismo o è repressione. E direi che con questo possiamo affrontare la lezione di oggi. Nella lezione di oggi tratteremo il ritratto, il trittico, diciamo così, ritratto di tre grandissimi trombettisti della storia del jazz, che hanno dei sorprendenti legami fra di loro, non solo stilistici, ma perfino personali, e un tragico destino che li accomuna. Perché tutti e tre questi musicisti sono morti molto giovani e hanno lasciato un segno profondissimo, nonostante la morte in giovane età, hanno lasciato un segno profondissimo nella musica e nella storia del jazz, non solo della tromba, e sono Fats Navarro, Clifford Brown e Booker Little. E la loro storia sta tutta più o meno in un quindicennio, fra la metà degli anni 40 e i primissimi anni 60. Il loro destino, tra l'altro, è a mio avviso anche un buon modo per riflettere su uno dei cliché del jazz, quello del maledettismo, no? Cioè del fatto che per essere un genio devi essere sfigato, devi essere maledetto, morire giovane, essere drogato. In realtà il tragico destino di questi musicisti, tutti morti fra i 23 e i 25 anni, è legato a storie che solo in un caso sono, diciamo, maledette, nel senso più tradizionale. Fats Navarro, che è nato nel 1923, è morto a 26 anni nel 1950, prima di compiere 27 anni, per un misto di tubercolosi ed eroina. Ma secondo, tra l'altro, come dire, un destino che lo accomuna a molti bopper. Ma nel caso di Clifford Brown, che è morto a 25 anni, prima di compiere 26 anni, Clifford Brown morì in un incidente d'auto, che è rimasto tragicamente nella storia, mentre Booker Little, che è morto a 23 anni, è morto di una malattia che oggi si cura, è l'uremia, che è lo stadio ultimo dell'insufficienza renale, che oggi è una malattia che si cura, ma che nel 1961 non era curabile. Quindi nulla a che vedere con, diciamo, il maledettismo. Sono tre destini tragici che si intrecciano fra di loro. E al tempo stesso, però, questi destini tragici si intrecciano anche nel segno di una musica, come vedremo, di grande cantabilità, di grande intensità melodica. Vorrei cominciare con Theodore Fats Navarro, che era nato a Key West in Florida il 24 settembre del 23 e appunto è morto in ospedale per un misto, appunto, di tubercolosi e di eroina il 7 luglio 1950. Chi di voi era presente alla scorsa lezione quando abbiamo provato a smontare i miti della musica nera? Qui vediamo Navarro, black proprio, nero, musicista del bop, quindi una musica nera per eccellenza. Vorrei ricordare che Theodore Navarro aveva questo cognome perché il padre era cubano bianco e la madre era nera, ma con alla lontana delle origini cinesi. Quindi, di nuovo, benché l'aspetto sia quello di un uomo dalla pelle nera, la discendenza, da un punto di vista geografico e genetico, era estremamente mista. Fats Navarro più tardi prenderà questo soprannome, Fats Ciccione, quindi è conosciuto semplicemente come Fats Navarro. Era nato in Florida ed è cresciuto in Florida, dove ha cominciato a suonare la tromba da ragazzino. Tutti i personaggi che vedremo si sono avvicinati a questo strumento intorno ai 12-13 anni e sono stati tutti molto precoci, avevano un talento straordinario. Dei tre, Navarro è quello che ha avuto una formazione musicale un po' più informale. A un certo punto, capace di suonare la tromba con uno stile, come dire, anche con una capacità superiore alla media, abbandona praticamente la scuola e già intorno ai 14-15 anni si avvia per le strade del professionismo musicale, che vuol dire sostanzialmente fare una vita da nomade. Si unisce a delle cosiddette territory bands, a delle orchestre di respiro regionale della Florida principalmente, poi esce da quello stato, viaggia anche nel Midwest e a un certo punto però decide di andare a New York. Tra l'altro vedremo che tutti e tre i musicisti di cui parleremo oggi alimentano il jazz newyorkese provenendo dalla provincia. Nel caso di Navarro, la Florida, nel caso di Clifford Brown, il Delaware e poi la Pennsylvania, nel caso di Booker Little, invece il Memphis nel Tennessee. Però New York è il punto d'attrazione, soprattutto nel 1946, quando Navarro ha praticamente 23 anni e decide di affrontare la grande esperienza newyorkese. Tra l'altro, di lì a poco entrerà nell'orchestra di Lionel Hampton come solista, musicista di, come dire, di sezione e solista, dove tra l'altro incontrerà Charles Mingus e nascerà un'amicizia fra i due molto intensa. Nell'autobiografia di Mingus, le ultime pagine sono dedicate proprio a Navarro, che sembra diventare una specie di interlocutore per certi approfondimenti filosofici, notturni, suggestivi che avvengono fra i due musicisti. Quando Navarro arriva a New York, lo stile dominante della tromba è quello di Dizzy Gillespie. E il bebop di Dizzy Gillespie, che in cosa consiste? Consiste in un fraseggio rapidissimo, molto drammatico, fatto di forti contrasti, ma soprattutto di grande virtuosismo. Cioè la tromba con Gillespie raggiunge una capacità di articolazione rapidissima sul registro acuto, sul basso, oppure facendo dei grandi salti, e una proiezione di suono eccezionali. C'è una specie di esplosione virtuosistica fatta di grandi contrasti e di effetti molto trascinanti. Naturalmente, come tutti i trombettisti di quegli anni, Navarro è influenzato da Gillespie. Questa influenza di Gillespie poteva avere, come posso dirvi, degli effetti diversi, per esempio su musicisti tecnicamente meno dotati, come Miles Davis. Quell'influenza di Gillespie veniva un po' moderata, perché Davis non aveva una tecnica trascendentale come quella di Gillespie. Nel caso di Navarro, invece, che aveva una tecnica molto avanzata, l'elaborazione dell'influenza di Gillespie, di questo virtuosismo molto spettacolare, fu declinata in un altro modo. Cosa fa Navarro? Ha una sua sensibilità melodica nuova. Allora, da un lato tende a, diciamo, ridurre gli estremi di registro, non va molto molto sull'acuto come Gillespie, che invece sparava dei sopracuti come se fossero dei fuochi d'artificio, non scende molto nel grave alla ricerca di effetti più cavernosi della tromba e invece si tiene principalmente in un registro medio. Stando nel registro medio, Navarro privilegia la cantabilità. È chiaro che nello stile di Gillespie suonare molto rapidamente con effetti spettacolari voleva dire privilegiare un virtuosismo trascinante a discapito di cosa? Del canto, della melodia, della piacevolezza della melodia. Gillespie articolava le note in maniera molto rapida, quindi l'effetto ritmico di quasi di mitragliamento dei suoni prevale sulla cantabilità. Navarro prende quel virtuosismo e invece lo articola in maniera molto netta, molto definita, con un suono molto omogeneo sul registro medio e in un modo molto cantabile. Navarro è uno dei più grandi musicisti, improvvisatori cantabili della storia del jazz. Questa cantabilità si associa ad un altro aspetto che vedremo caratteristico del suo stile, il fatto di suonare frasi molto lunghe. Il bebop, quando suonato da Charlie Parker, da Dizzy Gillespie, da Bud Powell, alternava, diciamo, due approcci, semplifico un po' per capirci. Uno è quello di suonare lunghe frasi molto articolate, l'altro è quello di spezzare queste frasi invece in brevi frammenti che sembrano in apparenza incoerenti fra di loro. Ecco, Navarro spinge di più sul primo versante. Siccome ha una sensibilità melodica a cantare belle melodie, dico cantare ovviamente metaforicamente con la tromba, tende a ulteriormente espandere questo disegno melodico e questo ha, come posso dire, delle conseguenze molto importanti, perché da un punto di vista tecnico, per esempio, implica un grande controllo del fiato. Una cosa è fare una frase che dura 3 secondi, un'altra è fare una frase che ne dura 15, 20, lunghissima. Non solo, ma suonando delle frasi lunghe, come vedremo, Navarro tende anche a superare come posso dire, la struttura del brano. I brani di jazz sono fatti di tanti piccoli segmenti che si iniziano e si chiudono, si riaprono e si chiudono ogni 8 battute. Ne abbiamo fatto un esempio l'anno scorso in una lezione di guida all'ascolto, tendono appunto a essere fatte di tanti piccoli segmenti e i musicisti improvvisano stando dentro questi segmenti. Navarro, con questa attitudine a suonare melodie lunghe, scavalca questi segmenti e quindi ci dà un senso di fluidità, maggiore. Forse il capolavoro assoluto di Navarro, che era anche un compositore notevole, è un brano che si chiama, Nostalgia, che adesso ascoltiamo. Che fu registrato il 5 dicembre 1947. Prima di ascoltarlo, vi faccio notare che il brano contiene, le ho segnate lì in fondo, due citazioni. Navarro è uno come molti bopper, come Charlie Parker, per esempio, amava molto citare altre melodie. Una è una melodia irlandese che si chiama Irish Washerwoman, e l'altra è un pezzo di Duke Ellington che si chiama Rockin' in Rhythm. Vi faccio sentire le citazioni prima, così le riconoscete durante l'assolo. Però prima di ascoltare le citazioni voglio dirvi cos'è Nostalgia. Nostalgia è la rielaborazione di una canzone di quegli anni che si chiama Out of Nowhere, di cui Navarro mantiene, l'andamento, moderato, a tempo moderato, e su questa, base armonica di questa canzone costruisce, come facevano spesso i boppers, una nuova melodia. Questa esigenza di scrivere nuove melodie su vecchie canzoni è anche un fatto di copyright. Cioè, mentre sulle armonie non c'è il diritto d'autore, sulle melodie sì. Quindi spesso le case discografiche spingevano i musicisti a inventarsi nuove melodie per non pagare il diritto d'autore agli autori delle canzoni su cui si basavano i brani. Quindi, magari l'ascoltiamo prima, scusate, Nostalgia, vi faccio sentire prima la melodia irlandese. Irish Washerwoman fa così. L'abbiamo ascoltata, i più fanatici di voi se la ricorderanno nella lezione dedicata a Coco di Charlie Parker, perché so che ci sono alcuni fanatici delle lezioni di jazz in sala, ma insomma sapete che il mondo è pieno di fanatici, alcuni pericolosi, altri meno, spero che apparteniate alla seconda categoria. Questa melodia irlandese viene appunto citata, rallentata da Navarro. Lui la fa più swing. L'altra melodia è una melodia di Duke Ellington dei primi anni 30 che si chiama Rockin' in Rhythm, che Navarro cita praticamente alla lettera. Ok? Adesso ci possiamo ascoltare Nostalgia. Navarro suona, come vedete nella foto, con la sordina, con questo suono quindi più nasale. È un gruppo con Charlie Rouse al sax tenore e poi c'è il pianista Tad Dameron, su cui torneremo, che è un personaggio molto importante nella nostra storia di oggi per tutti e tre i trombettisti. E sentirete che già il tema ha una bellezza melodica fuori del comune e Navarro prolunga la bellezza melodica del tema con questo assolo molto meditato e molto cantabile. Thank you. Rocking. Sentito questo tono in un certo senso moderato, appunto, molto raccolto nel registro medio, e questa capacità di cantare, di sgranare le note anche in maniera molto nitida per farci assaporare ogni piega della melodia. In quegli anni, negli anni del bebop, le big band erano in crisi. E allora molti leader di big band, per esempio Benny Goodman, se ne andarono in giro con piccoli gruppi, esattamente come succede oggi. Cioè, siccome le orchestre non ci sono i soldi per pagare le orchestre, si preferisce andare in giro col piccolo gruppo. Lo faceva anche Benny Goodman, che per avvicinare al suo stile anche il nuovo pubblico del bebop, assunse nel suo gruppo giovani musicisti, come per esempio il sax tenore Walter Gray, o lo stesso Navarro alla tromba. E con Benny Goodman, quindi con un'accoppiata alquanto strana, quella tra Navarro e Goodman, con Benny Goodman Navarro incise nel 1948 e poi anche dal vivo un brano del repertorio di Goodman che si chiamava Stealing Apples. Io direi di ascoltare insieme, non ascoltiamo tutto il brano, in questa lezione di oggi per esigenze di tempo sarò costretto a fare una cosa che a volte, non sempre, un po' sgradevole, cioè estrapolare dei frammenti dal brano complessivo, però lo facciamo perché ci concentriamo sugli assoli di tromba. Ascoltiamo dalla metà del brano l'assolo di Navarro e poi il tema finale, poi facciamo una riflessione. L'assolo di Navarro è breve e contiene un paio di elementi estremamente affascinanti che voglio farvi riascoltare. In particolare Navarro ha l'abitudine di attaccare delle frasi, prima sempre cantabili, ma prima un po' più complesse, e poi di arrivare all'idea melodica forte, non all'inizio, ma alla fine della frase. Nel fare questo tende ad articolare i suoni con molta precisione. Ascoltate per esempio nel primo frammento, adesso sentiamo due frammenti di seguito, in particolare nel primo si sente questa idea di chiudere la frase con un'idea melodica più forte. Questa è una e questa è l'altra. La frase inizia in maniera più, diciamo, con suoni più rapidi e poi si chiude invece con questo piccolo fiore cantabile. Un'altra cosa di Navarro è che quando va sul registro acuto, adesso sentiamo un altro esempio dallo stesso assolo, tende a staccare i suoni. È una cosa che poi Clifford Brown riprenderà pari pari. Mentre Gillespie, quando andava sull'acuto, tendeva a sparare, a stendere i suoni e a dargli una proiezione più potente, Navarro, soprattutto quando suona con la sordina, tende invece come a staccarli. Fate attenzione perché è un frammento brevissimo. È anche facile da cantare. È una settimana che l'ascolto, ce l'ho qui, chiaramente. A parte gli scherzi, è facile da cantare perché e quando va su tende a staccare e quindi a dare rilievo melodico a delle note che dovrebbero essere invece più spettacolari. L'incontro chiave nella nostra storia di Fats Navarro è con il pianista Tad Dameron, una delle figure chiave del bebop, un discreto se non mediocre pianista, ma un grandissimo compositore e arrangiatore. I due lavoreranno insieme per un anno e mezzo, incidendo molti dischi per la Blue Note e lavorando soprattutto al club Royal Roost, di cui esistono anche delle registrazioni radiofoniche dal vivo. Cos'è che funziona nel sodalizio fra Tad Dameron e Fats Navarro, uno dei sodalizi più felici del bebop? Funziona questo, che Dameron, come Navarro, ha una concezione melodica del bebop. A lui interessa il calore della melodia, interessa l'intensità degli impasti orchestrali. È come se portasse il dinamismo della big band dentro il piccolo gruppo, sfrondando le complessità nevrotiche anche del fraseggio bebop in melodie semplici, ben scolpite, che ti rimangono nella memoria. Dameron aveva questa abilità formidabile di creare la bella melodia. Allora, se Dameron è capace di creare la bella melodia nel tema, Navarro, come esecutore di questi temi e poi solista melodico, è praticamente un partner perfetto. E ci sono moltissimi dischi che i due fecero insieme per la Blue Note con varie formazioni e vorrei farvene ascoltare per intero uno molto famoso, una delle registrazioni più famose del gruppo di Tad Dameron, Lady Bird. Esiste una fotografia di quella seduta di incisione. Notate Navarro che disinvolto si tira su anche i pantaloni. A sinistra il sassofonista tenore Walder Gray, a destra, che è il secondo solista che sentirete di tenore, e a destra Olen Eger, due grandi musicisti nello stile di Lester Young. Per incominciare sentiamo questo pezzo per intero e fate caso alla forza melodica del tema e poi ci concentreremo sull'assolo di Navarro, che questa volta suona con la tromba aperta e non sordinata. Thank you. sentendo il brano per intero si apprezza molto bene questo effetto melodico complessivo di tutti i solisti che sono estremamente cantabili, però vorrei farvi notare un dettaglio stilistico, come Navarro attacca l'assolo. Di solito uno per attaccare l'assolo lo fa con un gesto plateale che sia, come dire, di sfondamento, no? Che sia di rottura. Navarro invece sceglie un effetto più sottile, quello di allungare la frase. Sentite che ispirazione melodica, che non sembra esaurirsi mai, nutre l'inizio del suo assolo. Va più avanti. Ecco, no, in realtà volevo farvi sentire l'inizio, ma avevo preparato un altro esempio, è quello del quando lui inizia una frase in maniera complessa e la chiude con una frase semplice. Andiamo avanti. Nel 1949 Navarro partecipò a una serie di sedute di registrazione con Bud Powell. E in questo gruppo, molto importante, c'è anche un ragazzotto 19enne a cui dedicheremo una prossima lezione di jazz, che è Sonny Rollins, che vedete qui nella foto, di nuovo proprio dalla seduta di incisione che stiamo per ascoltare. Questa seduta è molto importante perché segna un piccolo cambiamento nel bebop. La musica diventa un po' più aggressiva, più dura, e sembra anticipare quello che poi negli anni 50 si chiamerà hard bop. Soprattutto per il taglio molto energico che questo ragazzo pieno di talento, Sonny Rollins, dà al suo sax tenore. Noi ascoltiamo un frammento di Whale, che è una composizione di Bud Powell, proprio per apprezzare l'assolo di Navarro. Su tempo molto rapido stavolta, sentiamo come se la cava Navarro. Chet Baker qui. E poi continua Bud Powell. Addirittura la frase centrale è lunghissima, è una frase piena di idee molto più complesse, come se all'inizio della solo lui fosse più melodico, poi man mano che va avanti mette delle idee più complesse per poi tornare sugli elementi melodici. Avete visto che c'è un controllo della piacevolezza melodica anche su un tempo molto rapido, e quindi evidentemente è proprio la sua attitudine stilistica che va in questa direzione. È interessante notare che questo approccio trombettistico di Navarro non ebbe un grande seguito in quegli anni. Navarro era considerato un trombettista importante, ma era un caso isolato che non veniva imitato, diciamo così, non era oggetto di particolare culto come invece chiaramente lo era Gillespie, e rappresenta in un certo senso una polarità trombettistica molto diversa rispetto ai trombettisti di quegli anni, perché da un lato c'è il super virtuoso Gillespie, dall'altro c'è Miles Davis che sta pian piano imponendo una visione molto più essenziale della tromba, e in mezzo c'è lui che è virtuoso e al tempo stesso cantabile. Ecco, frasi così lunghe, proprio lunghissime, che sembrano andare da una parte all'altra del brano, verranno riprese pari pari da Clifford Brown, come vedremo. Gillespie non le usava, Miles Davis non le usava, perché ci vuole un'immaginazione architettonica, melodica, come devo dire, di ampia gittata per poter controllare, improvvisando, sul momento, inventandosi sul momento queste frasi, sapere dove vai a finire tra 8 battute, tra 10 battute, senza stare a pensare alle cesure interne che ci sono nell'accompagnamento. E questo implica appunto una visione, ripeto, a lunga gittata, architettonica, che altri trombettisti non avevano. Il destino di Navarro è quello di un musicista che subisce purtroppo il fascino dell'eroina, come molti musicisti, come molti boppers in quegli anni, che è aggravato dall'aver contratto anche la tubercolosi. La tubercolosi era una malattia che colpiva duramente ancora negli anni 40, soprattutto chi ovviamente faceva una vita più sregolata, e ha ucciso molte persone e, per quanto ci riguarda, anche molti musicisti in giovane età. Basti dire che in quegli anni si è portato via, tra i 21 e i 23 anni, due dei più geniali musicisti del secolo, cioè il contrabbassista Jimmy Blanton, che è morto a 21 anni, e il chitarrista Charlie Christian, l'inventore della chitarra elettrica, dell'improvvisazione per chitarra elettrica, a 24 anni. Navarro muore praticamente prima ancora di compiere i 26 anni per effetto incrociato della eroina e della tubercolosi. Non è più fat, non è più un ciccione, anzi, pensate che uno dei suoi soprannomi era Fat Girl, perché non perché fosse omosessuale, era eterosessuale, ma perché aveva una vocina acuta, per cui addirittura lui, con anche grande autoironia, intitola un suo pezzo Fat Girl. Però noi vediamo dalle foto che nell'ultimo periodo Navarro non stava nei vestiti praticamente, era dimagrito, stava malissimo. E l'ultima testimonianza di questa meteora importantissima del jazz è una registrazione fatta al Birdland, il famoso locale di New York, con Charlie Parker il 30 giugno 1950. Una rapida cronologia. In questa serata, in cui tra l'altro, guardate, una specie di All Stars, c'erano Bud Powell al piano, Carly Russell al basso, Art Blakey alla batteria, abbiamo la registrazione radiofonica di tutta la serata. Questa serata è il 30 giugno. Il giorno dopo Navarro viene ricoverato in ospedale, il 1 luglio, e una settimana dopo muore. Questa è l'ultima registrazione disponibile che abbiamo di Navarro in vita la sera prima di entrare in ospedale. E suona ancora molto bene. Il microfono lo penalizza un po', Charlie Parker, cercate di, come dire, di riequilibrarlo con la fantasia. Charlie Parker un po' in primo piano, Navarro un secondo piano. I ornitologi a un certo punto dialogano, 4 battute a testa, si fanno una cosiddetta chase, si dice nel jazz, si scambiano le frasi e improvvisano l'uno contro l'altro. È un bel modo per omaggiare Navarro, sentire come dialogava con il suo maestro del bebop, Charlie Parker, e al tempo stesso lo ascoltiamo nella sua ultima testimonianza. Thank you. questo è un frammento dell'ultimissima registrazione di Navarro che abbiamo. Un paio di settimane prima, intorno a, credo il 16 o 17 giugno, Navarro era stato in ospedale, ma non per problemi suoi, era andato a trovare un giovanissimo trombettista di nome Clifford Brown, che veniva dal Delaware e che aveva avuto un incidente d'auto molto grave, si era ripreso per il rotto della cuffia e sia Dizzy Gillespie sia Navarro andarono a trovare Clifford Brown in ospedale per incoraggiarlo e a continuare a suonare nonostante il grave incidente che aveva subito. Chi era Clifford Brown? Clifford Brown era nato a Wilmington nel Delaware il 30 ottobre 1930 e veniva da una famiglia di musicisti. In realtà anche Navarro, a casa di Navarro si suonava, il padre suonava un po', la madre anche, ma a casa Brown erano praticamente tutti musicisti. In particolare sarà il padre a invogliarlo, dopo aver esplorato il pianoforte all'età di 6-7 anni, a passare alla tromba. Il padre stesso aveva una tromba in casa, strimpellava vari strumenti, a passare alla tromba intorno ai 13 anni. Contrariamente a Navarro, Brown, che veniva da una famiglia medio borghese, compirà degli studi molto più, come dire, regolari, quindi frequenta la scuola superiore, lì incontra un insegnante di tromba che gli dà delle lezioni di strumento. Vorrei ricordare che tutti questi musicisti di cui stiamo parlando sono dei grandi innovatori, hanno studiato, quindi lasciamo perdere il mito del genio che si fa da sé, ovviamente. Ha un maestro di tromba, studia, suona con il gruppetto di jazz di questo maestro di tromba, suona nella band della scuola, dopodiché si iscrive a matematica all'università e frequenta sempre più la vicina Filadelfia. Siamo in un'epoca, i primi anni 50, quando Clifford Brown ha una ventina d'anni, in cui il jazz a New York è profondamente in crisi. Sono gli anni in cui Charlie Parker e Navarro duettavano al Birdland. C'era poco lavoro, non c'era molta attività, i locali chiudevano, una situazione veramente pesante. Mentre in provincia, per esempio in Pennsylvania, musicisti come Navarro trovavano molto lavoro soprattutto nei gruppi di rhythm and blues, che era un genere che andava molto più in voga, soprattutto presso il giovane pubblico nero che poteva ballare al ritmo più semplificato del rhythm and blues, e al tempo stesso questi musicisti potevano, dentro questi gruppi, sperimentare qualcosa come solisti. E Clifford Brown faceva proprio questo, suonava nel gruppo di rhythm and blues di Chris Powell e al tempo stesso continuava a studiare le sue soluzioni trombettistiche. Brown, da un lato, aveva ascoltato Gillespie, e chi non l'aveva ascoltato? Ma, caso abbastanza unico nella sua generazione, aveva ascoltato attentamente Navarro. Lo dice lui apertamente, da Navarro aveva preso l'idea, che cosa? Delle frasi lunghe, per esempio. L'idea di creare delle frasi più melodiche. In più, Brown ci stava mettendo qualcosa di suo, che consisteva, per esempio, in un suono più rotondo. Navarro, l'avete sentito, ha un suono più schiacciato, ha un suono potente, ma più schiacciato. Brown ha un suono rotondo e tende a articolare le note in maniera ancora più precisa e netta rispetto a Navarro. Ha la stessa qualità virtuosistica, se non che con questo suono più pieno, questo virtuosismo fa ancora più impressione. Suonare così rapidamente, con un suono rotondo, sgranando le note una dopo l'altra e avendo questa immaginazione melodica, come dicevamo, a lunga gittata, è veramente qualcosa di nuovo. Questa novità viene subito notata, e questo è un altro elemento in comune, da un altro, di nuovo, da Lionel Hampton. Navarro ha suonato con Hampton, Clifford Brown suona con Hampton, e con Hampton vengono in Europa, fanno un tour nel 1953 che ha poi come base Parigi, dove Brown incide una serie di dischi importanti. Quella big band di Hampton era piena di giovani talenti. Oltre a Clifford Brown c'era un altro trombettista destinato a una grande carriera di compositore, Quincy Jones, pensate. E questi qui, la sera, quando suonavano con Lionel Hampton, dovevano fare swing da ballo, una musica tutto sommato non di grande qualità, però la loro aspirazione era suonare ben altro. Allora, quando si trovarono a Parigi, cosa successe? Un produttore, Henri Renault, gli procurò uno studio per registrare la loro musica, cioè era la band di Hampton che invece di suonare la musica di Hampton suonava la musica di Quincy Jones o la musica di Gigi Grice o la musica di Clifford Brown. Ed è proprio da una di queste sedute che voglio farvi sentire un brano straordinario che si intitola Brown Skins, composto e arrangiato da Gigi Grice, che è un sassofonista dimenticato ma importante anche come compositore, aveva studiato anche composizione classica, registrato a Parigi il 28 settembre del 53. Tra l'altro, in quegli anni Brown aveva incontrato un altro personaggio che si intrecciava con la vita di Navarro. Come vi avevo detto, Brown nel 50 aveva avuto un brutto incidente automobilistico, ci aveva quasi rimesso la pelle. Praticamente gli rimarrà una spalla spostata per tutta la vita, non riuscirà più a suonare il pianoforte, avrà continui dolori. E Navarro era andato a trovarlo in ospedale. Ma c'era un altro personaggio che lo legava a Navarro, ed è Sonny Rollins. Sonny Rollins all'epoca era, nei primi anni 50, appena uscito dall'eroina. E l'incontro, lui stesso lo dice, l'incontro con Clifford Brown gli fece capire che si poteva fare il jazzista senza bucarsi, conducendo uno stile di vita pulito. Clifford Brown è molto importante perché ha introdotto come modello di persona nel jazz uno stile di vita sano, pur facendo il jazzista, pur essendo geniale. Non fumava, non era attratto dall'alcol, non si bucava soprattutto, non era un drogato, un eroinomane, e suonava da Dio. Fu un modello molto importante, per esempio, per musicisti come Sonny Rollins, per capire che si poteva perseguire, come dire, una genialità musicale senza bisogno, il bisogno di farsi di altro. Brown Skins ve lo faccio sentire immediatamente per intero, è molto bello, è un brano che ha una struttura molto particolare, ha un inizio sontuoso, quasi sinfonico, molto complesso, scritto da Gigi Grice, che vi dà la misura della sua spessore di compositore. Poi a un certo punto il pezzo si ferma e sulle armonie di Cirochi parte questo lungo, libero assolo di Clifford Brown. Sentirete una specie di stile di Fats Navarro all'ennesima potenza. Possiamo alzare un po' il volume, grazie. Tema scritto da Gigi Grice. 23 anni, impressionante, c'è questo controllo dello strumento, ma anche il tono emotivo della musica di Brown è veramente singolare, perché ha una specie di quiete interiore, cioè la musica è dinamica, il virtuosismo strumentale è portato all'estremo, ma c'è questo controllo, questa specie di quiete per cui ogni nota è pensata, è ragionata, sì, a volte ci sono degli slanci, ma complessivamente c'è una specie di equilibrio, diciamo così, emotivo, che contrasta con il dinamismo dell'esecuzione. Ma la svolta per la carriera di Clifford Brown avviene nel 1954, quando incontra il grande batterista bebop Max Roach e insieme in California, notate bene, non a New York, ma in California, decidono di fondare un quintetto destinato a cambiare la storia del jazz. Questo quintetto si chiamerà Quintetto di Max Roach e Clifford Brown, a nome di tutti e due, poi vedremo anche chi sono gli altri componenti, e rappresenta un momento fondamentale nell'evoluzione del jazz, perché viene ripreso il discorso di quella seduta di registrazione di cui parlavamo prima, di Bud Powell con Fats Navarro e Sonny Rollins, alla ricerca di un jazz un po' meno complesso del bebop e con una energia netta, più concreta, più blues anche, dal disegno più definito e più sintetico, che prenderà il nome di hard bop, cioè un bebop più hard, più concentrato, più incisivo e meno nevrotico. Il quintetto di Max Roach e Clifford Brown è fondamentale nella definizione dell'hard bop. In una manciata di dischi fatti fra il 1954 e del 1956. All'inizio il quintetto è fatto con il sassofonista Harold Land, al pianoforte c'è il fratello di Bud Powell, Richie Powell, il bassista George Morrow e naturalmente Max Roach alla batteria. In questo gruppo Clifford Brown ha modo anche di mostrare la sua notevole abilità di compositore. Come Fats Navarro, Brown ha una capacità di scrivere dei temi melodici, memorabili, nuovi come carattere, che non hanno il carattere del bebop, hanno questo disegno più fresco, meno spigoloso, ma al tempo stesso molto energico, che segnano qualcosa di nuovo nella scrittura del jazz. Alcuni di questi pezzi, ne sentiremo due adesso, uno per intero, uno a metà, sono poi diventati degli standard. Per darvi un'idea del suono di questo gruppo, vi faccio sentire una prima composizione di Brown, che si chiama Dawood, che è anche una delle sue più celebri. Questo è il quintetto di Clifford Brown e Max Roach. We'll be right back. Straordinario. Clifford Brown aveva 24 anni quando ha inciso questo brano, lo dico per umiliare i musicisti in sala. Voglio farvi sentire una frase che c'è in questo assolo, perché c'è un elemento nuovo rispetto al solismo di Fats Navarro. Avendo questo suono più rotondo, ma con la stessa velocità di articolazione di Navarro, Brown introduce un effetto che poi è stato ripreso da centinaia di trombettisti negli anni a seguire, cioè la sensazione che le note rimbalzino una dopo l'altra, cioè non solo sono sgranate come faceva Fats Navarro, ma addirittura sembra che rimbalzino una dopo l'altra, perché voi le sentite una per una singolarmente. Una è più forte, una è più piena, una è più sottile, l'altra, e c'avete questa sensazione di elasticità, di rimbalzo continuo dentro queste grandi arcate melodiche. Questa cosa è poi stata ripresa, come vi ho detto, da generazioni di trombettisti. Insieme a Dizzy Gillespie, Clifford Brown forse è il trombettista in assoluto più influente sulle successive generazioni di trombettisti di jazz, per arrivare fino, che so, a Fabrizio Bosso, che ha ripreso lo stesso identico, Bosso praticamente nasce da una costola di Clifford Brown. Faccio il nome di Fabrizio perché, oltre ad essere un grande trombettista, credo sia molto familiare a molti di voi, e viene proprio da questo stile qui, è una diretta discendenza dello stile di Clifford Brown. Il secondo brano che voglio farvi ascoltare, ve ne farò ascoltare metà perché è più lungo, è un altro tema memorabile di Brown, che viene dallo stesso disco, che è il loro primo disco, si intitola Joy Spring, e qui sentirete Brown alla sordina come Fats Navarro suonava la sordina Nostalgia, se vi ricorderete. È un tema un po' sulla falsariga di Nostalgia, cioè moderato, con un'atmosfera più raccolta e una linea melodica memorabile. Legame con Navarro. Ha ha ha! meraviglia, è una specie di cascata, di fontana di idee. Chissà perché me lo ricordavo sordinato, l'ho sentito fino all'altro giorno, invece chiaramente con la tromba aperta. Tra l'altro sia in questo, non so se qualcuno ci ha fatto caso, adesso non c'è il tempo di approfondire, ma sia in questa esecuzione sia nella precedente affiora qui e lì Bella figlia dell'amore di Verdi, non so se ci avete fatto caso, dal Rigoletto, cioè, addirittura in Brown Skins c'è proprio una citazione esplicita, evidentemente doveva averla sotto le dita. Naturalmente tutto questo implica studio, fatica, lavoro. Questa idea di suonare delle frasi lunghe senza mai interrompersi è il risultato di una applicazione costante fatta a casa. Sapete, abbiamo delle registrazioni di Clifford Brown che studia a casa, con la sordina per non disturbare i vicini. Ve la faccio sentire un frammento. Che cosa fa? Lo sentirete. Suona delle frasi veloci, cambiando continuamente tonalità, senza avere una direzione precisa, col solo scopo di studiare l'articolazione ad una certa velocità. Tra l'altro questa idea che gli viene un po' da Navarro, come nella citazione di Irish Washerwoman, cioè di fare delle frasi lunghe e poi ogni tanto interromperle, spezzarle con queste frasi staccate, più cantabili, più semplici, quasi infantili. Viene sempre da Navarro questa cosa. Di Clifford Brown, al contrario di Navarro, abbiamo almeno un filmato. Quindi lo possiamo vedere. Fu registrato il 20 febbraio 1956, vi ricordo che poi lui morirà nel luglio del 56, durante la trasmissione TV di un comico, Soupy Sales, che era, fa un sacco di mosse un po' idiote, alla fine lo vedrete, che però era un grande appassionato di jazz, quindi diede spazio al giovane Clifford Brown, che suona velocemente due brani, Lady Be Good e il più lento, Memories of You. La qualità video e audio è abbastanza cattiva, però è un documento preziosissimo, l'unico che abbiamo per vedere in carne ed ossa Clifford Brown. Alla fine sentirete che Soupy Sales lo intervista, e Clifford Brown ha appena avuto un bambino, che tra l'altro è il figlio che oggi gestisce la fondazione Clifford Brown, e ha appena avuto un bambino, dice che è un bambino bello robusto, Soupy Sales fa delle battute e poi si saluta. Great jazz groups in the country today, and that's the Max Roach Cliff Brown Ensemble. And with us tonight is one of the outstanding jazz trumpeters in the country today, MRC recording star Clifford Brown. Thank you. our guest tonight, Clifford Brown. Good morning. We want to talk with you. And it's been about 7-8 months. When you last on our show, you were just you and Max had been in the picture Carmen Jones. Right. And you were at the Rouge there. How long you be at the Rouge? Well, we'll be there for 1 week. We open Tuesday and we close Sunday. Sunday. You gonna do a matinee in the afternoon Sunday? Yes, ma'am. 4 o'clock. Matinee. Yes, 4 o'clock Sunday. Wonderful. Listen, of course, you know we're a great fan of Donna Washington. We have a lot of her records. I have a lot of yours. You're on a lot of her records. What's your latest album? Well, our latest album is called The Study in Brown on the Emerson label. I understand you just became a father, right? Oh, yeah. Yeah, what, did I have a boy or girl? A little boy. Uh-huh. 6 pounds, 4 ounces. He's born with a trumpet in his mouth. That's what it is. Listen, Cliff, certainly, you know, appreciate you coming up tonight. Tell Max we said hello. Thank you very much. We'll right along with us here. We'll see you again tomorrow night. Thanks for being with us. Good night, guys. Coming up, Cliff. Join us again tomorrow night for another session while Sippy's on with more music, variety, and fun with Detroit's zaniest, Sippy Sales. Ecco, se pensate che Bonolis sia un idiota, non l'avete ancora visto Sippy Sales. Anche se, devo dire, lo tratta. Tra l'altro la scena è impressionante perché siamo nel 1956, c'è un bianco in televisione che intervista un nero, lui ha lo sguardo basso, c'è anche una certa asimmetria sottile di potere in quello che abbiamo visto. In questo perfezionismo assoluto di Clifford Brown, questo ragazzo aveva qualche difetto, ma forse uno ce l'aveva. Clifford Brown non è mai stato un trombettista profondo, nel senso drammatico, ecco, no, forse non profondo, ma drammatico. È un musicista che anche, per esempio, ha fatto un disco con gli archi o quando suonava le ballad, tendeva comunque ad essere virtuoso, a giocare su queste melodie lunghe, sulle frasi veloci, e gli è mancata un po' di profondità emotiva qualche volta, lì dove era richiesta una maggiore pensosità. Forse è dovuta alla sua giovanissima età, questa mancanza di maturazione interiore, però noi sappiamo che qui e lì essa affiorava, quindi si sarebbe potuta sviluppare. In particolare voglio chiudere questo ritratto di Clifford Brown con un suo assolo meraviglioso in un disco che io adoro, che è un disco del 54 che segna il debutto di una grandissima cantante, Helen Merrill, 1954, il brano si chiama Born to be Blue, l'arrangiamento è fatto dall'amico di Clifford Brown, Quincy Jones, c'è la voce meravigliosa di Helen Merrill che canta questa canzone splendida di Mel Tormé, e al centro c'è incastonato un assolo di Clifford Brown che è in perfetto equilibrio tra frenesia della nota, della frase che mi scappa, veloce, virtuosistica, e invece una certa pensosità. E ci sono questi due suoni bellissimi, quello più arioso, granuloso della voce di Helen Merrill, e invece il suono rotondo della tromba di Clifford Brown. Something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold is something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell, I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Nell'assolo di Clifford Brown, evito qualsiasi commento per non sporcare questa musica, nell'assolo di Clifford Brown c'è un elemento di novità a un certo punto, c'è un punto in cui Clifford Brown schiaccia le note, fa bene la signora Andaria che dopo questo ascolto ci sarebbe veramente, no si figuri, era una battuta, era per, sentite questo effetto di nota schiacciata, perché poi sarà importante. Quello questo effetto poi verrà ripreso, lo sentiremo da Booker Little. Un'altra cosa che fa Clifford Brown, che introduce nel linguaggio per tromba che prima non c'era, è quella che tecnicamente si chiama l'acciaccatura. Invece di farvela sentire da lui, ve la faccio, la suono sul pianoforte visto che c'è lo strumento, cioè approcciare la nota con un'altra nota più corta, così. Invece di fare, per esempio, fai così. Cioè, c'è questa piccola nota che sporca la nota successiva, che dà un piccolo impulso. Ecco, Clifford Brown fa questa cosa, se poi andrete a risentire gli esempi, spessissimo, ed è diventata una come dire, un elemento del linguaggio trombettistico che non c'era per esempio nel trombettismo classico e non c'era neanche in quello jazz fino a quel momento, che oggi è diventato parte integrante del linguaggio dello strumento. In seguito, tra il 1955 e il 1956, Harold Land lascia il gruppo e chi entra nel quintetto di Max Roach e Clifford Brown? Il vecchio amico Sonny Rollins, che quindi diventa un trade union con Fats Navarro e appunto il gruppo di Roach e Brown. Abbiamo diversi dischi, un disco in studio e delle registrazioni dal vivo. Io adesso qui non ho il tempo di farvi sentire una registrazione dal vivo, magari recuperiamo quando ascolteremo, faremo la lezione su Sonny Rollins, perché l'esperienza di Rollins con il quintetto di Brown e Roach è fondamentale. Ma vorrei ricordare che proprio dopo una di queste, dovendo andare a suonare una di queste serate, Brown perde la vita, perché su una strada statale della Pennsylvania, di notte con la pioggia, alla guida c'è la moglie di Richie Powell, ci sono Richie Powell e Clifford Brown in macchina, l'autista perde il controllo della macchina sul fondo stradale scivoloso, la macchina finisce in un fosso e contro un albero e muoiono sul colpo tutti e tre. Muoiono la moglie di Richie Powell, il pianista del gruppo Richie Powell, fratello di Bud, e Clifford Brown, che non aveva ancora compiuto 26 anni. Questa è una delle tragedie più gravi nella storia del jazz, in un destino sfortunato, visto che Brown aveva già rischiato la vita 6 anni prima in un altro incidente d'auto, e ci ricorda appunto che il maledettismo poi non c'entra niente, ma è straordinario il modo in cui Brown abbia comunque lasciato una eredità che ha profondamente influenzato, ripeto, tutte le generazioni successive. C'è un prima e dopo Clifford Brown nella storia della tromba. Ma c'è ancora un terzo personaggio di cui dobbiamo parlare. E questo terzo personaggio è, a cui dedichiamo l'ultima breve parte della nostra conversazione, Booker Little, ancora più sfortunato, morto a 23 anni, come vi ho detto, di uremia, una malattia che oggi si cura e che invece all'epoca era, si cura oggi con la dialisi o con il trapianto di rene, e invece all'epoca non si curava. Quindi Booker Little è morto tra l'altro in un modo molto triste, perché l'uremia implica tra l'altro elementi dell'urina che finiscono nel sangue, quindi la bocca diventa amara con dei sapori assurdi, insomma è veramente una cosa molto molto brutta. Little era nato a Memphis nel Tennessee nel 1938. Memphis era estremamente vivace in quegli anni, parliamo quando Little aveva una ventina d'anni, 17, 18, 19 anni, cioè sempre negli anni 50, era la patria di Finest Newborn, di George Coleman, di grandi musicisti con i quali tra l'altro poi lo stesso Little suonerà. Little sostanzialmente studia la tromba a scuola e poi al conservatorio, si trasferisce da adolescente a Chicago, è un musicista con un talento fuori del comune, in 4 anni si diploma in tromba al conservatorio di Chicago, studia anche composizione, quindi ha degli studi musicali formali, diciamo classici, e entra rapidamente nel giro del jazz, pur venendo da studi classici, proprio perché ha un talento fuori del comune. E l'uomo che lo porta all'attenzione nazionale negli Stati Uniti è ancora una volta Max Roach, che era stato l'uomo che aveva portato all'attenzione nazionale Clifford Brown. Max Roach, dopo la morte di Clifford Brown, continuerà con il suo quintetto, con Kenny Dorham alla tromba, ma poi incontra sulla sua strada il ventenne, in questa foto, ventenne Booker Little, e insieme registrano dei dischi in cui emerge tutto il talento straordinario di questo trombettista. Booker Little è esplicitamente, lo dice lui in un'intervista, esplicitamente debitore di Fats Navarro e di Clifford Brown. Lo dice senza mezzi tecnici. Io vengo da Clifford Brown, mi ispiro a quel mondo. Tra l'altro sembra che i due si fossero incrociati, Clifford Brown in passato, Clifford Brown e Booker Little, come si erano incrociati molti anni prima Fats Navarro e lo stesso Clifford Brown. Noi non ascolteremo adesso un brano da un disco di Max Roach, ma nei giorni scorsi, devo ringraziare l'amico Marcello Piras, ho recuperato un filmato Poi ho avuto dei problemi tecnici, ci ho lavorato anche stanotte, insomma, comunque ho recuperato un filmato che si trovava su YouTube, ma che poi la ABC ha tolto da YouTube perché forse faceva i miliardi con un filmato in cui c'era Booker Little dentro, che è un filmato straordinario perché ci mostra due cose importanti. La prima è questa, io ho dimenticato, ho omesso di dire una cosa prima. Anche Clifford Brown ha avuto un contatto non episodico con Tad Dameron. Vi ricordate il pianista che era stato il collaboratore stretto di Fats Navarro? C'è un disco intero di Clifford Brown, con Clifford Brown ospite, che ha un ruolo fondamentale all'interno di una serie di brani scritti da Tad Dameron. Quindi quel melodismo di Dameron è fondamentale anche per Clifford Brown. Anzi, vi posso dire una cosa, che il compositore Clifford Brown influenzò gli improvvisatori Navarro e Brown dandogli dei consigli. Noi in genere pensiamo che il jazz vada avanti per effetto degli improvvisatori, i compositori vanno a traino, questa è la visione che abbiamo di solito. Il caso Dameron ci mostra l'opposto. Dameron andò da Clifford Brown e gli disse: ma perché non fai delle frasi ancora più lunghe che scavalcano le cesure? Perché non fai come fa Navarro? E gli chiede quindi delle indicazioni di carattere strutturale che poi lui, Brown, ha incorporato. Lo stesso succede con Little. Little sente una sintonia con quel mondo melodico di Tad Dameron e allora arrangia con il quintetto di Roach un pezzo che Dameron aveva inciso poco prima, The Scene is Clean, la scena è pulita, forse è un'allusione ironica al fatto che anche Dameron era tutt'altro che pulito, era un eroinomane anche lui, mentre Little, attenzione, si faceva vanto di seguire quella stessa, lo dice in un'intervista, quella stessa linea clean, veramente pulita, non di tossicodipendenza, non di dipendenza dall'alcol, eccetera, di Clifford Brown, che rimane un modello per Little anche per questo. E il quintetto comprendeva l'altro di Memphis, George Coleman, al sax tenore, curiosamente c'era la tuba di Ray Draper, Art Davis al contrabbasso, Max Roach alla batteria. Il pezzo è quello di Tad Dameron, The Scene is Clean, Booker Little, l'arrangiatore, 1958. Qui Little ha uno spazio breve, però ne potrete già apprezzare il suono pastoso, il fraseggio articolato come quello di Clifford Brown, ma soprattutto la sua abilità di arrangiatore. È lui che arrangia il pezzo per il gruppo, ispirandosi al melodismo di Tad Dameron. La qualità è pessima, vi dovete accontentare perché è prezioso. Qui a 20 anni. Ha ha ha! Quintet with George Pullman on tenor and Art Davis on bass, and the scene is clean. You know, there was a time when the... L'altro personaggio chiave che Booker Little... Scusate, c'è una diapositiva di troppo. L'altro personaggio chiave che Booker Little incontra sulla sua strada è il sassofonista, polistrumentista, flautista, clarinettista Eric Dolphy, con il quale fra il 1960 e il 1961 registra una serie di dischi e suona dal vivo, in particolare al Five Spot, un piccolissimo, minuscolo locale a Manhattan, e i due incidono delle cose straordinarie. Devo dire che i dischi di Dolphy e Little insieme sono tra i monumenti, tra i capolavori assoluti, poi li elencheremo, del jazz contemporaneo. In particolare... c'è una registrazione dal vivo al Five Spot del 16 luglio 1961, cioè Little morirà nell'ottobre del 61, pochi mesi prima della scomparsa di Little, che queste registrazioni sono state celebrate, copiate, rifatte, rielaborate, insomma sono state oggetto di molti omaggi. E il brano che vorrei farvi ascoltare ci dà l'idea ancora della capacità compositiva di Little. È un suo valzer, si chiama Booker's Waltz, e qui si apprezza meravigliosamente, grazie al suono della registrazione, la prima cosa su cui vorrei farvi concentrare: la pastosità del suono di Little. Little non ha il suono luminoso o aperto di Navarro o di Brown, ha un suono più scuro, più denso, più pastoso. Quindi quell'articolazione che si sente in Brown è più legata, non solo, ma tende a usare di più, per esempio, quelle note schiacciate che sentivamo occasionalmente in Clifford Brown, ma ha la stessa attitudine alle frasi lunghe, al melodismo, anche se si spinge di più sul registro acuto, sul registro grave, rispetto a Navarro o Brown. La sua capacità melodica lascia veramente incantati. Questa è un'esecuzione molto lunga di cui ascoltiamo il tema e l'assolo di Booker Little. Il tema è di Little. Il tema è bellissimo. continua Eric Dolphy. Ora, mi rendo conto che è un po' tardi, quindi il prossimo ascolto chiederò al tecnico a un certo punto di sfumarlo, sentiremo solo l'assolo di Little, ma non posso saltarlo, perché vorrei farvi ascoltare almeno due brani e poi chiudiamo, dal capolavoro assoluto di Booker Little, marzo 1961, un disco che, se volete mi butto in ginocchio, vi consiglio caldamente di, se volete lo faccio, ecco, vi prego di acquistare, se non lo conoscete, questo disco, che è uno dei più grandi dischi della storia del jazz, soprattutto se si pensa che è stato fatto da un musicista appena 23enne. Qui c'è una ricchezza compositiva che neanche Clifford Brown poteva immaginare. Allora, il primo brano che voglio farvi sentire, ve ne farò sentire un pezzetto, ci mostra un aspetto, e cioè la maturità compositiva di Booker Little. Booker Little compone in questo brano, che si intitola Quiet Please, Quiet Now non a caso è un titolo di Ted Dameron, fa due cose fondamentalmente. Uno, introduce un'alternanza di velocità presa dallo stile di Charles Mingus. Parti lente, parti veloci. E poi c'è l'influenza di Max Roach nel fatto che qui suona, nel fatto che Little usa i tempi dispari. Non in questo brano, ma in altri brani. Qui alterna il 4 quarti e il 3 quarti. In altri brani introduce il 5 quarti, il 7 quarti. Tutti tempi che erano completamente nuovi per il jazz. Oggi sono usati normalmente, ma soprattutto non venivano mescolati. C'era Take 5 di Dave Brubeck, che è tutto in 5 quarti, dall'inizio alla fine. Ma non si passa dal 5 al 4 nel giro di poche battute. Little forse è il primo a fare questa cosa che oggi è normale nel jazz. Lo faceva a 23 anni nel 1961 e poi improvvisa sopra con una intensità impressionante. Vi faccio sentire il tema complesso, molto articolato, quasi dissonante di Quiet Please e l'assolo di Little. Poi quando farò un cenno il tecnico cortesemente sfumerà. fumare, grazie. Questa intensità pazzesca la trovate in tutti i dischi di Little, che vi consiglio. Un paio, non sono tutti quelli che lui ha fatto, quelli più importanti con Max Roach, tra cui la famosa suite Freedom Now Suite, quelli con Eric Dolphy in studio e dal vivo, e tra i suoi vari album da leader, i due più importanti, che sono Out Front e Victory and Sorrow, che è stato registrato fino al settembre del 1961, quindi un mese prima della sua morte. Io vorrei concludere la conferenza con un ascolto integrale di Little, il brano è piuttosto breve. Si chiama Man of Words, è dedicato al critico Nat Hentoff, che gli produsse questo disco totalmente indipendente per una piccola etichetta che si chiamava La Candid. Ve lo faccio ascoltare senza commento, perché ci dà la piena misura di qualcosa che non abbiamo trovato in Clifford Brown, e cioè una profondità drammatica, espressiva, che toglie il fiato. Qui Little abbandona completamente tutte le convenzioni del jazz, sentirete che non c'è lo swing tradizionale, una specie di corale funebre, e sul quale si staglia questo assolo di tromba con questo suo suono che non ha eguali ed è rimasto sostanzialmente inimitabile. Questo suono vellutato, pastoso, denso, che avete visto riconquista il registro acuto che Clifford Brown usava di meno, con questi suoni schiacciati e al tempo stesso una qualità melodica veramente straziante. Questo è Man of Words. In definitiva, questi personaggi sono legati da tante persone. Avrei potuto aggiungere anche Lionel Hampton, con i quali hanno suonato Clifford Brown e Fats Navarro. Fats Navarro e Booker Little non si sono mai conosciuti, ma gli altri si sono incontrati attraverso tante mediazioni, amici in comune, influenze reciproche, e relazioni personali e musicali. È un mondo che sembra molto diversificato, invece alla fine ha tanti personaggi in comune. Sono i Rollins e Max Roach in particolare per questi personaggi. E questi musicisti anche rappresentano una genealogia nella possibile, non è l'unica, è solo una parziale genealogia delle trombe moderne. Pensate a come Clifford Brown abbia influenzato Freddie Hubbard, per esempio, o come Wynton Marsalis sia in fondo una diretta discendenza di Booker Little, o come Woody Shaw sia in fondo una sintesi fra Little e Brown. O pensate a quanto a Little, a cui è dedicato un disco, tra l'altro, Dave Douglas con il suo lirismo, l'uso dei suoni schiacciati, certe strutture compositive. Come vedete, arriviamo fino al jazz contemporaneo. Il titolo dell'ultimo disco di Booker Little era Victory and Sorrow, vittoria e tristezza e compianto. Io direi di rovesciare i due termini, tristezza e compianto per la loro morte prematura, ma vittoria per il fatto che la loro musica ci influenza ancora. Grazie.